Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. La speranza di una nuova generazione di dispositivi più economici, più efficienti, più flessibili dell'attuale fotovoltaico basato sul silicio ha un nome. Questo nome è perovskiti. Le perovskiti sono una famiglia di composti chimici, tra cui si annoverano anche molti minerali presenti in natura, a partire dai quali negli ultimi anni ricercatori di tutto il mondo sono riusciti a sviluppare nuove celle fotovoltaiche sottili, economiche, perché richiedono pochissima energia per essere fabbricate e sprecano ancor meno materiale. In pochi anni queste celle hanno raggiunto efficienze paragonabili a quelle del silicio, suscitando grande interesse da parte della comunità scientifica. D'altra parte, queste celle sono anche molto instabili e degradano assai rapidamente se esposte agli agenti atmosferici. Ovviamente riuscire ad evitarlo è cruciale per trasformare questo fotovoltaico alla perovskite da oggetto di laboratorio a realtà industriale. Ebbene, un passo avanti molto importante in questa direzione è arrivato pochi giorni fa da uno studio condotto dal Politecnico di Torino in collaborazione con partner quali il Politecnico di Losanna, il Politecnico di Milano e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Questo studio, pubblicato sulla rivista Science, tra le più prestigiose del mondo, propone un rivestimento capace di mitigare i problemi di queste celle solari e sembra proprio aprire le porte alla loro produzione industriale. Ne parliamo con Federico Bella, ricercatore del DISAT, il Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino. Buonasera Bella. Buonasera a voi. Senta Bella, per prima cosa le chiedo di spiegarci quali sono i nemici naturali, per così dire, di queste celle a perovskite. Sì, allora, queste celle fotovoltaiche di nuovissima generazione hanno due grandi limiti. Il primo limite è che non sono tolleranti all'umidità e all'acqua, quindi è un problema se uno vuole esporre ad esempio sui tetti o nelle finestre. Il secondo limite è che si degradano quando la componente ultravioletta dei raggi solari incide sulla cella solare, e questo non va bene di nuovo per un discorso di applicazione su scala reale. Ecco, circa il 5% della radiazione solare è fatta da questi raggi ultravioletti che distruggono rapidamente la cella. Quanto dura una cella alla perovskite così lasciata liberamente esposta a questi elementi? Dura pochissimi giorni, siamo tra i 4 e i 5 giorni. Perfetto. E poi è completamente distrutta. Ecco, come avete fatto a risolvere questo problema? Vediamo la soluzione. Abbiamo proposto un sottile rivestimento di pochi micrometri a base di un materiale polimerico contenente fluoro. Questo materiale risolve due problemi. Essendo a base fluoro, ci taglia completamente la penetrazione dell'acqua e dell'umidità nella cella, quindi la rendiamo stabile all'applicazione. È praticamente idrorepellente, si può dire così o no? Perfettamente, okay. Un idrorepellente, una barriera all'acqua. E in secondo luogo, questo polimero a base fluoro è stato dopato con delle molecole che si chiamano agenti luminescenti. Cosa fanno, in poche parole? Assorbono quel 5% di luce UV che hai accennato e la trasformano in luce visibile, quindi la cella non si degrada più. E forse anche aumenta l'efficienza, perché questa luce visibile invece le celle la trasformano in energia, no? Esattamente così, paradossalmente riusciamo a fare delle celle ancora più efficaci con questo gioco di scambio di lunghezze d'onde. Senta, quanto durano le celle con questo rivestimento? È una soluzione, diciamo così, definitiva o ne allunga soltanto la vita per il momento? Nei nostri test accelerati, che mimano esattamente tutti i 20 anni di vita della cella, siamo riusciti a ottenere celle che a fine ciclo avevano il 98% dell'efficienza iniziale, quindi le garantiamo sostanzialmente stabilità per tutta la loro vita applicativa. Ecco, allora è venuto il momento in cui possiamo passare dal laboratorio all'industria, cioè si può veramente a questo punto procedere con l'industrializzazione? Era questa la risposta che attendevamo, il pezzo del puzzle che mancava? Assolutamente sì, adesso che abbiamo risolto il problema della stabilità possiamo passare a una fase di pura ingegneria, ovvero allargare questa cella dalle dimensioni di un francobollo a quelle di una finestra. E d'altra parte fare un pannello di metro quadro che degradava in 4 giorni non serviva a nulla. Ecco, diciamo. Assolutamente no. Ecco, a questo punto per farla questa industrializzazione che cosa serve? Quali possono essere i tempi anche? Sì, noi stiamo ricercando qualche partner industriale che collabori con noi in modo da riuscire ad andare sul mercato entro un anno e mezzo con questi dispositivi. Quindi pochissimo tempo anche, quindi non c'è neanche tanto lavoro di ingegnerizzazione a questo punto da fare, no, da dire. Diciamo di no, la tecnologia è già pronta ed è pronta per essere messa su un impianto. E insomma, imprenditori in ascolto, questa potrebbe essere veramente una partita importante. Grazie Federico Bella e avanti così. Grazie a voi, spero di aggiornarvi presto. E con questo è tutto. Prima di lasciarci vi ricordo che potete contattarci, farci le vostre segnalazioni scrivendo a smartcity@radio24.it. Mi trovate anche su Facebook come Maurizio Melis o col profilo Smart Melis. È davvero tutto, appuntamento a domani e buona continuazione qui su Radio 24.